Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Siccità, il governo pronto a firmare il decreto, emergenza in 6 regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia. Dimezzata la produzione idroelettrica in Friuli, in vasi semivuoti anche alla centrale di Somplago. L'estate nera dei cieli, manca personale e le compagnie tagliano i voli, saltato ieri quello per Francoforte. Avvio dei saldi in chiaroscuro in regione, sulle capacità di spesa delle famiglie pesa l'inflazione. Volantini antitruffa, l'uscita dalla messa, Cordenons, polizia mobilitata per gli anziani. A grado il perdon de Barbana, la secolare processione votiva con le barche in laguna. Il violinista di Giovanotti, un giovane triestino aperto con Vivaldi, i beach party di Lignano. Calcio, raduno udinese agli ordini del mister Sottil, la prossima settimana il ritiro. Giochi del Mediterraneo, argento nel nuoto per la friulana Mizzau con la staffetta 4x200 e per la triestina Mosetti nei 100 ostacoli, bronzo nella vela. 7:19 minuti di lunedì 4 luglio, buongiorno da Eva Ciuc e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è poco nuvoloso sulla regione, alle 6 c'erano 26 gradi e mezzo a Trieste, a Udine 25,5 decimi, 24 gradi e mezzo a Gorizia, 23 a Pordenone, a Tolmezzo 22 gradi, a Forni di Sopra 18, a Tarvisio e sul Piancavallo 16 gradi, a Sappada 14 gradi e mezzo sul Monte Lussari, 13 e mezzo sullo Zoncolan, a Lignano 27 gradi e 5 decimi, 25 e 5 decimi a grado, la temperatura del mare nelle due località 28 gradi. Le previsioni oggi su pianura e costa, cielo poco nuvoloso e in giornata farà ancora molto caldo, un po' più afoso rispetto ai giorni precedenti, con venti a regime di brezza. Sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile, con probabili temporali sparsi, possibili già in mattinata, qualche temporale localmente potrebbe essere anche forte. In serata e nella notte successiva probabili temporali su tutte le zone. Non risultano feriti originari del Friuli Venezia Giulia al momento nel crollo del serracco di ghiaccio avvenuto ieri in Marmolada, lo ha detto ieri il suo in Veneto. Sono 6 sinora i morti accertati, identificate 4 vittime, 3 cittadini italiani, il quarto è di nazionalità ceca. Restano da identificare ancora un uomo e una donna. Fra i dispersi ci sono italiani, tedeschi, cechi e probabilmente anche romeni. Ci sono diverse auto parcheggiate nella zona del Lago Fedaia in Trentino, all'attacco dei sentieri che salgono in quota, di cui non sono ancora stati identificati i proprietari, e verifiche oggi saranno ulteriormente condotte anche dal lato bellunese. Al crollo della torre di ghiaccio in Marmolada potrebbero aver contribuito le elevate temperature registrate anche in quota. Ieri è stata una giornata bollente anche in tutto il Friuli Venezia Giulia. Le temperature hanno fatto registrare picchi localmente fino a 37 gradi, ma il termometro ha segnato 30 gradi anche in alcune zone della montagna. L'ARPA Friuli Venezia Giulia ha emesso un'allerta arancione su tutto il basso e medio Friuli anche per oggi, in considerazione non solo delle alte temperature ma anche degli alti livelli di umidità. E parliamo allora di siccità. Il governo dovrebbe firmare già oggi il decreto che dà il via libera ai piani di emergenza regionali sulla siccità presentati sinora da 6 regioni, oltre al Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. Nella bozza del decreto, con le misure di contrasto alla scarsità d'acqua, di potenziamento delle infrastrutture idriche, anche un commissario straordinario. La regione ha già consegnato al governo il proprio elenco di opere di contrasto alla crisi idrica. E con i livelli d'acqua ai minimi ad andare in sofferenza non sono solo le coltivazioni ma anche la produzione di energia idroelettrica. Siamo andati a vedere com'è la situazione nella centrale di Somplago a Cavazzo Carnico. La diga dell'Ambiesta a Verzegnis sembra quasi piena, ma è un'illusione. Il livello è regolato artificialmente solo per esigenze di produzione dell'energia idroelettrica. Gli invasi in realtà sono semivuoti, basta vedere un po' più su la diga di Sauris, da dove proviene l'acqua di Verzegnis. Produzione che nel 2022 è stata la metà di un anno normale in Friuli, così come nell'intero nord Italia. Poche piogge, poca acqua, poca energia. Proprio quando ne avremmo più bisogno per affrancarci dalla dipendenza del gas russo. Roberto Castellano, responsabile di A2A per l'idroelettrico in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo prodotto meno, ma nonostante si sia prodotto di meno, il volume di acqua accumulato negli invasi è inferiore e significativamente inferiore rispetto alla media storica. Stiamo parlando di una riduzione di circa il 60%, cioè ha piovuto e nevicato circa il 40% finora di quanto era avvenuto in passato negli anno medio. A causa della siccità, il gestore A2A deve rispondere alle richieste del mondo agricolo. La diga rilascia qualche metro cubo al secondo per alimentare la presa che dal tagliamento permette l'irrigazione dei campi del Medio Friuli, acqua che evidentemente non si trasformerà in energia elettrica. 280 metri sul livello del mare più giù, l'acqua cade nelle tre turbine della centrale idroelettrica, aperta ai visitatori, come accade ogni anno a luglio. Quando passiamo noi, però, non scorre. L'acqua, infatti, viene lasciata andare solo nel momento in cui il mercato elettrico lo chiede. È uno dei vantaggi dell'idroelettrico, infatti, la capacità di rispondere rapidamente ai picchi di domanda di energia, quando, per esempio, le fabbriche vanno al massimo o tutti noi teniamo accesi i condizionatori. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E quello di ieri è stato un giorno di super lavoro per il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. Incidenti ma anche malori causati dalle alte temperature, come a Tramonti di Sopra, alle Pozze Smeraldine per un escursionista padovano. Stessa causa per il malore accusato a Cercivento da un quarantenne vicino ai laghetti Zofplan. A Barci, su un ciclo escursionista pordenonese che scendeva in mountain bike in Val Caltea, è caduto dopo aver preso una buca. Per lui forte trauma cranico nonostante il casco e la frattura ad un arto superiore, è stato prelevato dall'elisoccorso regionale. A Chiusa Forte, a metà giornata, attivata la stazione di cave del Predile assieme alla Guardia di Finanza per un uomo scivolato lungo il sentiero nei pressi del Fontanon di Goriunda in Val Raccolana, battendo il capo. L'intervento per la giovane slovena smarritasi sotto le pareti del Mangar si è concluso con l'individuazione e il recupero della donna e di suo marito. Entrambi di Lubiana avevano preso due tracce differenti salendo dai laghi di Fusine e lei si era persa finendo in un punto impervio. Sono stati recuperati entrambi a bordo dell'elicottero della Protezione Civile. E intervento conclusosi poco prima delle 21 ieri a Sappada in Borgata Lerpa, dove un uomo di nazionalità croata impiegato in un cantiere locale era uscito per fare una corsa e non aveva poi fatto rientro al luogo in cui alloggia. I colleghi sono andati a cercarlo, hanno sentito le sue grida di aiuto. Il ferito era bloccato all'interno di una zona di schianti di alberi della tempesta Vaia, cercando di scavalcare un tronco di grandi dimensioni. L'uomo è caduto procurandosi la frattura di una caviglia, aveva perso anche il cellulare, quindi non potendo muoversi non riusciva a chiedere aiuto. È stata attivata la stazione di Sappada del soccorso alpino e la Guardia di Finanza di Tolmezzo. Una volta raggiunto il ferito, la squadra ha coadiuvato l'equipe dell'elisoccorso sbarcata con il verricello sul posto. Parliamo ora di caos nei cieli d'Europa e non solo per la carenza di personale. Anche l'aeroporto di Ronchi dei Legionari coinvolto con il collegamento con Francoforte cancellato da Lufthansa. Partirà alle 14.25 da Trieste, diretto a Francoforte, un velivolo con capienza raddoppiata per ospitare gli 80 passeggeri rimasti a terra ieri e gli altrettanti già previsti per oggi. È la prima conseguenza del caos aeroporti che si sta registrando in Europa e Stati Uniti e che ora ha conseguenze anche nella nostra regione, perché il volo che doveva partire ieri dal Trieste Airport di Ronchi dei Legionari alle 18.10 di fatto non ha mai lasciato la Germania. Si dice molto dispiaciuto l'amministratore delegato Marco Consalvo, che sperava di non essere coinvolto nei disagi. Sono gli scali del nord Europa, ci spiega Consalvo, a sentire il problema della mancanza di personale, perché le persone licenziate durante la pandemia non sono più state riassunte. In Italia invece gli ammortizzatori sociali hanno mantenuto gli organici. Da Trieste le uniche città del nord Europa raggiunte sono Londra, Bruxelles e Francoforte, quest'ultima ma servita con 12 voli settimanali proprio da Lufthansa, che è tra le compagnie più in difficoltà e ha infatti annunciato il taglio di 2.200 voli tra luglio ed agosto, il 3% del totale. Rispetto al personale, Trieste Airport conta 130 dipendenti complessivi e avrebbe bisogno di più personale per la sicurezza, ma stiamo avendo grosse difficoltà a trovarlo, ci racconta Consalvo. Si è appena concluso un corso per assumere 10 persone della sicurezza Security, ma su 15 che hanno iniziato la formazione di fatto ne sono rimaste solamente 6. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E adesso parliamo dei saldi che sono partiti nel fine settimana. La spesa per famiglia in regione si aggirerà tra i 200 e i 250 euro, ma pesa sugli acquisti l'inflazione. Incassi più alti dell'anno scorso a Trieste. Negozi aperti fino alle 23 a Monfalcone, con positiva risposta di pubblico. Occasione poco sfruttata invece a Udine. A detta dei rappresentanti di categoria, non è partita con lo stesso sprint la stagione dei saldi estivi in quelle città dove l'avvio degli sconti ha coinciso con la notte bianca. Non c'è stato l'assalto ai negozi, ma siamo speranzosi e fiduciosi che durante la settimana si possa recuperare un po', osserva da Lignano Sabbiadoro il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda, Alessandro Tollon. A Udine, notte bianca, poco concludente per gli affari, pochissimi i negozi aperti, ci dice un'altra imprenditrice. Col senno di poi, secondo gli addetti ai lavori, ha pesato la scelta di associare alla serata di shopping un grande evento in castello come il concerto di Gabbani. Tutto si concentra lì e in centro non si fanno più affari, meglio tante piccole iniziative diffuse come a Trieste. Disponibile a ragionarne assieme l'assessore alle attività produttive e turismo, Maurizio Franz. Per rendere la città più bella e attraente ci vuole l'impegno di tutti, dice. A Pordenone, così come anche a Gorizia, bene la mattina, un po' meno il pomeriggio, con le città svuotate dal caldo e il recupero dei centri commerciali. Nel capoluogo isontino la campagna elettorale non ha favorito la pianificazione di attività collaterali. Si punta a recuperare con il saldo dei saldi la prima metà di settembre. Pordenone invece non fa notte bianca per scelta, da tempo ha optato per i giovedì sotto le stelle. Visto che la città si svuota nei weekend, si trova più conveniente puntare ad una routine di eventi per favorire gli acquisti infrasettimanali. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Regione ha aggiornato il programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale con l'assegnazione di quasi 3 milioni e mezzo di euro per il sistema sanitario che deve fronteggiare l'emergenza pandemica. In base alle indicazioni della Commissione Europea, ha detto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, sono state recuperate risorse dalle procedure esaurite in favore di quelle che invece necessitano ancora di copertura finanziaria. Quasi 2 milioni vanno all'edilizia scolastica, 1 milione di euro alle strutture sociosanitarie, 700.000 euro per il contributo a due progetti del comune di Pordenone, sostituendo la compartecipazione dell'ente locale. Il bollettino della pandemia. Ieri in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1013 nuove positività al Covid su circa 4500 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici. Si sono registrati 3 decessi, uno a Udine, 2 a Gorizia. In terapia intensiva erano ricoverate a ieri 7 persone, una in più rispetto al giorno prima, 162 negli altri reparti, 5 in più rispetto alle 24 ore precedenti. L'incidenza su 7 giorni è di oltre 833 contagiati ogni 100.000 abitanti. In Consiglio regionale oggi la quarta commissione esprimerà un parere sulla delibera di giunta per il piano regionale della mobilità ciclistica. In programma dalle 13.30 la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e poi quella della giunta per il regolamento su eventuali aggiornamenti del regolamento interno e su una proposta di modifica dei rapporti con la commissione paritetica. L'ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eidar, ha visitato e reso omaggio per la prima volta al Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba a Trieste, unico campo di concentramento e lager nazista in Italia, dotato di forno crematorio. L'ambasciatore Eidar si è soffermato in meditazione e preghiera, recitando anche il canto dei giardini, che racchiude il sogno millenario del ritorno a Sion, scritto più di 2500 anni fa. Voltiamo pagina. Cordenonsi era iniziativa della polizia che ha incontrato gli anziani all'uscita dalla messa, obiettivo metterli in guardia e tutelarli sui rischi di raggiri e truffe ai loro danni. Si inquadra tra le iniziative di prossimità della Polizia di Stato per sensibilizzare gli anziani a difendersi dalle truffe. Due poliziotti dalla questura di Pordenone hanno distribuito ai fedeli in alcune chiese dei comuni di Cordenonza, Zoppola e Porcia un volantino per illustrare ai cittadini le tecniche più utilizzate dai truffatori per aggirare le vittime. Don Angelo Grillo, parroco di Santa Maria Maggiore. Questa è la categoria più fragile che ha bisogno di essere tutelata e custodita da tutti. Oggi questa iniziativa non posso se non promuoverla e ringraziarla. Molto importante, molto. Dobbiamo essere al corrente un po' di tutto. Questura di Pordenone consiglia la polizia contro le truffe, ma con questo è una cosa importante allora. Sì, fate bene a informare la gente. Un vademecum con spiegati i modi per riconoscere le truffe più comuni e come comportarsi per evitarle. Ovviamente il primo consiglio in caso di dubbi è quello di chiamare il numero unico di emergenza 112. Luca Carocci, questore di Pordenone. Abbiamo riscontrato che nell'immediata periferia, nei comuni immediatamente prospicienti a Pordenone, questo tipo di reati erano più frequenti. L'importante è sempre essere molto accorti, non prestare subito buona fede a chi ci si avvicina, soprattutto quando ci si avvicinano anche con modi gentili, garbati, affabili, e soprattutto teniamo sempre presente che appunto il rischio è veramente dietro l'angolo. Un'iniziativa d'intesa con la diocesi di Concordia Pordenone, con consigli e linee guida da seguire per evitare spiacevoli truffe di cui gli anziani sono spesso vittime, soprattutto in questo periodo. Cordenons, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo 2 anni online torna in presenza a Udine, a Palazzo Antonini, la scuola estiva internazionale sull'intelligenza artificiale che spazia dalle interazioni tra uomo e computer all'informatica biomedica. La 5ª edizione della scuola, in calendario da oggi e fino a venerdì 8 luglio, è dedicata a ricercatori, dottorandi e professionisti del settore ICT interessati ad approfondire studi accademici, applicazioni in ambito industriale e nuove tendenze di settore, con lezioni impartite da esperti internazionali e laboratori. Egrado ieri ha celebrato la sua più importante e sentita tradizione religiosa, il Perdon de Barbana. 785 anni di una grazia che compenetra spiritualità e tradizione di Grado, quell'essere isola unica e diversa, depositaria ed interpreti di questa forza rituale e portatori della Madonna, che quest'anno contano 5 nuovi membri. All'ingresso in porto il saluto dei marinai d'Italia, tra 2 ali di folla il portatore anziano Maurizio Tognon lancia il fatidico grido. In nome di Dio! Avanti! Sfilano le barche nel canale accolte dalla gioia dei gradesi sui balconi e poi forza ai motori nel delicato passaggio al ponte girevole. Ad aprire il corteo le barche a remi come un tempo quando i reburci trainavano incatenati il 4 di coppia e l'alfiere della canottieria Ausonia, capovoga Alessandro Lauto. È un'emozione stupenda aver impugnato i remi sulla nostra barca per il Perdon, come è stato fatto per secoli dai nostri predecessori, e anche noi con orgoglio cerchiamo di mantenere viva la tradizione. A seguire con la capitaneria di porto le forze dell'ordine, poi 6 pescherecci, le associazioni gradesi, la goletta Colombo con le autorità e la stella del mare ammiraglia giunta al suo ultimo viaggio. Per la prima volta tra le vele tradizionali al terzo la battella di Grado impianti turistici timonata dal presidente Roberto Marin. Sbarco a Barbana con gli onori remieri di Grado Vogue. Nell'omelia l'arcivescovo Redaelli ricorda la responsabilità personale e collettiva di fronte al messaggio cristiano, mentre il sindaco di Grado, Kovac, offre l'obolo della comunità ai monaci benedettini del santuario. All'altare per la prima volta anche il nuovo parroco di Grado, Monsignor Nutarelli, gradese doc. È una grande emozione dove si mescolano ricordi di infanzia, ma anche tanta gratitudine per le persone che mi hanno aiutato a essere ciò che sono. Insieme possiamo fare grandi cose ed è questo l'augurio che faccio a me e a tutti noi. Madonnina del mare. Sul canto più amato, la via del ritorno, le ortensie del Perdon volano di mano in mano portando un profumo di storia tra le calli dell'isola. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il sigillo trecentesco della città di Trieste verrà consegnato al giovane chef triestino Matteo Mettuglio, vincitore di 2 stelle Michelin da parte del sindaco Roberto di Piazza Trieste nel Salotto Azzurro del Palazzo Municipale alle 10. Gli spettacoli, si è conclusa da poche ore la grande 2 giorni di festa del Jova Beach Party a Lignano. Sul palco anche ieri sera è salito un giovane talento triestino, il suo nome è Pierpaolo Fotti ed è un violinista. La primavera di Vivaldi come nuovo inizio post-pandemia, interpretata in abiti d'epoca da un giovanissimo e talentuoso violinista triestino per la seconda serata di seguito per il pubblico del Jova Beach Party a Lignano Sabbia d'Oro. Pierpaolo Foti, 25 anni, classe 1997, violinista e compositore, nasce come studente del Tartini di Trieste per poi terminare gli studi a Genova e proseguire in molte città europee. Lo abbiamo raggiunto nella spiaggia di Lignano pronto per il secondo show in 24 ore per un'intervista veloce con alle spalle il grande artista Lorenzo, che gli ha dato questa opportunità. Mi sono sentito proprio così vivo, immerso in un'emozione unica, un fuoco. Qualcuno lo chiama fuoco sacro ed è qualcosa che me lo porterò per tutta la vita come un inizio. 36.000 persone per la data d'apertura, altrettanti in questa seconda giornata del tour organizzato a Lignano da FVG Music e Vigna PR per un evento no stop dalle 15 a mezzanotte con un giovanotti che si concede con generosità al pubblico come ai suoi ospiti. A tornare per la seconda serata anche l'amico di sempre Gianni Morandi, che si muove nell'area inseguito dai ragazzini come un divo moderno. Salterò solo una tappa delle 21 in programma, dice Gianni, perché ho promesso a mia moglie Anna una settimana di vacanza. La gente sembra molto felice di esserci, di cantare, di ballare, di essere insieme. Questa è una cosa fantastica. Io ho sempre qui la mascherina perché un attimo di preoccupazione c'è per questo ritorno di questi contagi. Sembra che non siano così gravi come prima, però... Attenzione! Io quasi. Lignano, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Evento centrale stasera per il Piccolo Opera Festival 2022, rassegna di musica lirica portata in alcuni dei più suggestivi castelli e ville della regione, che propone una nuova produzione della Madama Butterfly di Giacomo Puccini, allestita nel Teatro di Verzura del Castello di Spessa di Capriva del Friuli con inizio alle 20:30. Il Teatro di Verzura è elemento tipico dei giardini all'italiana del XVIII secolo, è un teatro aperto per l'estate, costruito con la vegetazione. Regista Enrico Stinchelli, abbiamo chiesto un commento sulla scenografia allestita nel castello. È una cornice ideale per Madama Butterfly perché segue praticamente le didascalie del libretto. La collinetta dove c'è la casa di Cho-Cho-San, Nagasaki sullo sfondo, che sarà il grande campo da golf retrostante. Ovviamente per realizzare questo tipo di spettacolo ho applicato, diciamo, quella che è la regola fissa di una regia che segue ovviamente il libretto, quindi rispetta l'autore, ma al tempo stesso utilizza il massimo contributo tecnologico possibile, quindi useremo per esempio la grande quercia che è al centro della scena come un ideale mapping, vedremo apparire immagini, vedremo partecipare come un personaggio questa quercia e poi delle grandi azioni che avvengono dietro, per esempio Pinkerton e Goro all'inizio dell'opera giocano a golf. Quali sono stati gli accorgimenti a cui avete dovuto ricorrere per una scenografia così particolare? Sì, indubbiamente questa è una sfida. Più ampli, più pazzeschi sono gli spazi, più, devo dire la verità, mi trovo a mio agio. E non era il caso, per esempio, di mettere sopra questa collinetta un ring, quindi un palcoscenico piccolo e ristretto. Abbiamo una visuale enorme, proprio di 180 gradi, quindi il pubblico avrà l'impressione di assistere a un film. Questa è la cosa importante. Gli accorgimenti sono quelli, appunto, di aver utilizzato proiettori, luci, insomma, in un certo modo, seguendo una determinata conoscenza della materia ed esperienza. A questo si unisce ovviamente il mio comprovato amore per l'opera, comprovato e sviscerato amore per l'opera. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Gran finale per Folkestra, segna di musica folk, che stasera decreterà il vincitore di questa 18ª edizione della competizione del premio Alberto Cesa, intitolato a uno dei gruppi pionieri della world music in Italia. A presentare la serata Duccio Pasqua di Rai Radio 1 e Martina Vocci di TV Capodistria. Ospite speciale Massimo Priviero, che presenterà il suo ultimo album, L'Essenziale, a Spilimbergo, in Piazza Duomo, alle 21. L'Orchestra d'archi del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste si esibirà nell'ambito del cartellone di Trieste Estate 2022 in musiche di Gustav Holst, Nino Rota e Peter Ilich Tchaikovsky al Castello di San Giusto alle 21. Lo spettacolo Gli Dei dell'Olimpo di Anatema Teatro andrà in scena alla Boschetta Furlane di Campo Formido alle 21. Gli attori, guidati dal signore dell'Olimpo Zeus, andranno alle loro postazioni arricchite da elementi di luce e scenografici, e poi incontreranno il dio del mare Poseidone, il dio del sole Apollo, il protettore dell'amore Eros e la dea della sapienza Atena. Quarta giornata per la rassegna cinematografica triestina Shorts International Film Festival. Il primo appuntamento è con il laboratorio di micromimica alla Casa del Cinema alle 10, sede che dalle 18 si trasformerà in una sala cinematografica virtuale con visori e una poltrona girevole per visionare i corti in concorso. Le proiezioni serali prevedono il via alle 20 al Teatro Miela con i lungometraggi in concorso della sezione Nuove Impronte, dalle 21.15 invece al Giardino Pubblico. Ospita invece il quarto blocco della sezione Mare Metraggio, di cui si segnala Homebird, animazione realizzata con la tecnica della pittura su rodovetro utilizzando migliaia di pennarelli, tubi di vernice e fogli di acetato. Ora allo sport, e partiamo dal calcio con l'Udinese, che oggi si ritrova per cominciare la preparazione con il nuovo mister Andrea Sottil. Primo allenamento alle 18 dalla prossima settimana, poi i bianconeri saranno in ritiro a Linz in Austria, la prima amichevole il 13 luglio con la squadra cittadina, poi a seguire match contro Union Berlino, Schalke 04, Bayern, Leverkusen, poi la nazionale del Qatar e i ciprioti del Paphos. Ai 19esimi giochi del Mediterraneo di Orano in Algeria, nel nuoto argento per la friulana Alice Mizzao con la staffetta 4x200 stile libero, l'Italia ha chiuso dietro la Slovenia a 7:59:63. Argento nei 100 metri ostacoli per la triestina Nicla Mosetti, che conclude la gara in 13:22 davanti alla greca Elisabeth Perisudou e dietro alla francese Solène Compé. Nella vela, Giovanni Coccoluto, triestino, specialità Ilka 7 e medaglia di bronzo. E c'è anche la spadista udinese Giulia Rizzi, tra i 18 azzurri della scherma che gareggeranno con i colori Italia Team in Algeria. L'atleta friulana che vive e si allena a Parigi sarà in gara oggi, giornata che il programma dedica appunto alle prove di spada. Giulia Rizzi figura tra i convocati come riserva in patria anche per i mondiali assoluti che si terranno al Cairo a metà mese. In campo oggi anche la pallavolista friulana Sofia Dodorico. L'ottavo rally Valli della Carnia, tappa friulana della Coppa Italia di quarta zona, si è concluso ieri sera ad Ampezzo con il trionfo di Marco Signore e Patrick Bernardi su Skoda Fabia Rally 2. Il pilota trevigiano, già vincitore nel 2019, ha letteralmente dominato la corsa. Al secondo posto l'udinese Filippo Bravi, vincitore l'anno scorso assieme al navigatore Enrico Bertoldi. Terzo posto per un altro trevigiano, Rudy Andriolo su Skoda, davanti al manzanese Claudio De Cecco, primo dei concorrenti over 55. Ed è ad Almere nei Paesi Bassi l'Ital Basket, guidata dal tecnico triestino Gianmarco Pozzecco, che stasera disputerà l'ultimo match della prima fase di qualificazione al Mondiale. Gli azzurri sfideranno i Paesi Bassi, guidati dall'italiano Maurizio Buscaglia, alle 19:30. E prima partita ufficiale dunque per Pozzecco dopo l'amichevole di una settimana fa a Trieste contro la Slovenia. È inutile sottolineare l'importanza della gara contro i Paesi Bassi, ha detto il coach. Noi dovremmo cercare di correre e controllare i rimbalzi in difesa. L'attenzione dovrà essere massimo, anche perché contro i Paesi Bassi sarà la prima di un nuovo corso tecnico. Eva Romanelli per la categoria junior e Giovanni Conti per la categoria over sono i due triestini che hanno vinto il rispettivo titolo italiano ai campionati nazionali di gym box in corso al Lido di Fermo. Ai campionati partecipano circa 330 atleti in 4 categorie di età e 8 di peso. Siamo alla rassegna stampa, cominciamo con il piccolo di Trieste che mette in primo piano la fotonotizia con la tragedia delle Dolomiti, il caldo sgretola la Marmolada, morti sotto il ghiaccio, almeno 6 le vittime. Il titolo principale, vaccini in stallo, nei frigoriferi dosi di in scadenza, 73.000 le iniezioni di Moderna inutilizzabili a breve, in totale 400.000 quelle a rischio entro pochi mesi. In taglio alto, Gradisca Georgiano morì al CPR il 18 gennaio 2020, chiesto il processo per omicidio. Concluse dunque le indagini su direttore e centralinista all'epoca della struttura, faro su ritardi nei soccorsi. In arrivo da Roma, 6 milioni per la dispersione scolastica, un titoletto in taglio alto. Si tratta di una prima parte dei finanziamenti su un totale di 1 miliardo e mezzo. Nelle pagine interne, il caso delle UCA, entrate in servizio venerdì, le 4 unità di continuità assistenziale che sostituiscono le USCA, compiti ampliati e stipendi giù, la regione scarica il problema. Il capocronaca di Trieste è dedicato al turismo. Porcina, gelato con panna e pelinkovac in valigia, i vizi di chi visita la città. La crisi idrica in Friuli, poca pioggia, troppo caldo, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Nella foto c'è il maxi crollo di ghiaccio sulla Marmolada, morti, feriti e dispersi, si legge. Altro titolo sulle dosi di vaccino, come avete sentito, vicine alla scadenza in regione. In taglio alto sfondano il finestrino e rubano 18.000 euro d'incasso della festa di Dignano e accanto San Giorgio. Addio ad Arzenton, pioniere degli allevamenti IT. A destra Serie A, vacanze finite per l'Udinese, si riparte con la novità Sottil, mondiale 82 sotto il barone Causio, sfoglia il suo album dei ricordi. E in basso, in taglio basso, il display annuncia bus in arrivo, malattesa e vana. L'apertura della cronaca cittadina è proprio sugli autobus fantasma, inconveniente dovuto a un guasto, fa sapere la società Arriva Udine. Accanto anche la nascita di un comitato che chiede di essere coinvolto nel recupero della caserma Osoppo, compresa nel piano Experimental City. Appello dei primari, basta tamponi, l'apertura del Gazzettino, inserto del Friuli, test solo a chi ha sintomi è la richiesta. Nella fotonotizia, Giove in fiamma Lignano, concerto record, c'è un titolo per il salvataggio dell'altra notte di 3 ragazzi sul Montasio, in alta montagna con le scarpe da città. Di spalla la svolta, meno migranti dalla rotta balcanica, che si svuotano le strutture sotto la staffetta degli alpini, arrivata a Trieste, e in taglio basso il via alla stagione dell'Udinese. La prima pagina del piccolo nell'edizione di Gorizia e Monfalcone, c'è la strage di Marmolada, il tema dei vaccini, e poi leggiamo due titoletti di cronaca: i dragaggi in extremis salvano la processione del perdon a Grado e addio a Milena Gulin, finì nello stesso lager di Anna Frank, quello di Bergen-Belsen. La cultura, il castello di Spessa e l'inedita Butterfly al Teatro Verzura, e per lo sport, softball, Ronchi e Cormons sul tetto d'Europa con l'Italia Under 22. La cronaca nelle pagine interne, la SDAG cresce, le bollette preoccupano, il bilancio chiude con un utile di 63.000 euro, l'amministratore unico Grendene dice il trend è positivo ma i costi dell'energia sono raddoppiati. La cronaca di Monfalcone, nel centro-sinistra il caso Staranzano fa scoppiare la sfida per le regionali dopo l'uscita dal PD di due consiglieri comunali, gli ex sindaci Dem, Papais e Brusa avvertono la sinistra nella bisiacaria, gesti scellerati, ora basta. E tra gli altri temi, la Collio Berda Cup torna al successo, la maraton ha chiuso il weekend dedicato alle due ruote, in 150 hanno preso il via della gara da 60 chilometri. Sul Gazzettino, inserto di Pordenone, apertura sempre sulla richiesta di un limite ai tamponi Covid. Sotto giochi in fiamme, incendio doloso nella scuola materna di Villa d'Arco di Cordenons nella notte tra sabato e domenica. Il sindaco delle vedove è preoccupato, secondo episodio dopo quello del rogo del manto della Madonna. Nella fotonotizia, la famiglia Polesello piange Michele, una delle due vittime dell'incidente in Istria con un'auto che ha travolto la moto su cui viaggiavano l'uomo e la compagna, uccidendoli. Polesello era originario di Brugnera, la sua famiglia un pilastro del distretto pordenonese del Mobile. Di spalla, allarme e anoressia tra i giovani, casi raddoppiati. In taglio basso, calcio, ramarri da gestire, ci sono anche i rientri dai prestiti. Sul Messaggero Veneto, a differenza dell'edizione di Udine, in alto l'incendio alla scuola materna di Cordenons, danni per 10.000 euro, si legge, e accanto anche qui il lutto di Maron di Brugnera per il motociclista morto in Istria. In taglio basso i consigli antitruffa della polizia agli anziani e in apertura di cronaca cittadina anche l'ecocentro Mobile, che raddoppia le raccolte nei quartieri anche di carta e plastica. E abbiamo tempo per segnalarvi ancora qualche appuntamento. Oggi negli Stati Uniti si celebra il giorno dell'indipendenza, che sarà festeggiato anche all'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano, con musica e intrattenimenti che si concluderanno alle 22 con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Non avendo mai preso il fucile tra le mani, antifascista italiana alla guerra civile spagnola 1936-1939, il libro, che sarà presentato da uno degli autori, Marco Puppini, a Trieste, all'Associazione Hauser Volontariato in via Frausina alle 18.30. Andrea Zoc presenterà il suo libro Lo stato di emergenza, riflessioni critiche sulla pandemia a Trieste all'antico caffè San Marco alle 18.30. Per Storie di Angeli alle 18 nella chiesa di San Giovanni in Tuba a Trieste la presentazione del libro di Don Fabio La gioia alla strada del riconoscimento. A seguire il concerto degli angeli con il coro dell'Accademia Lirica di Santa Croce. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire appuntamento con WEOF Evelyn D, che parlerà dell'allarme dei trasporti per l'aumento del costo dei carburanti. Alle 11.20 la prima puntata di La radio che pedala, ogni lunedì un itinerario cicloturistico, oggi Trieste. Alle 11.55 prende via la sesta serie di fotoradiografie. I programmi regionali tornano poi alle 14. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Federico Comar e Giampaolo Zucchi. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Da Eva Ciuccheritta Amicoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.